E chi è? Chi è questo segnalone? Chi è? No, sei tu, Tonino, buongiorno. Ehi, chi è? Non ho sentito, no, chi è? Claudio Benito. Benito? Ehi, mi ha ascoltato dopo tanto. Arrivi basso basso perché non sono a casa, sono ancora in villeggiatura. Ciao, Claudio, buon Ferragosto. Non l'ho fatto prima perché adesso ho acceso e sto spolverando di tutto. Che spolvera, spolvera? Il 27 c'è da divertirsi, non ve ne sciuno. Qua ogni tanto siamo quattro gatti, ma comunque ci sentiamo, ammazziamo un po' il tempo. In ferie, mi è dando mi alla polizia di casa, e quello sempre in giro. Già va bene, già va bene, beni. Spolvera, spolvera, anch'io mi. Ho finito poco fa di fare alcune cosette, non ho fatto la macchina, con la speranza che non piova, ma non credo, va. Va bene, rimango in ascolto che sto facendo cosa. Un abbraccio, contraccambio gli auguri per Ferragosto, anche se è passato, ma comunque buone ferie anche a te, dai. Ciao, ciao. Tutto ricambiato al centro, fai fai, che anche io sto facendo. Ehi, già è acceso, a dopo. Ciao, ciao. Ciao, Diego, è salutato. Qua è diversa la modulazione, no? Ciao anche a Benito, non so se mi ascolta lui. Ehi, a Franco, ben sentito dopo tanto. Anche a te, buongiorno. Buongiorno, per la radio bassa c'hai, fa, già ti ho capito. Niente, ciao anche a te, Claudio. Ciao Fra, scusa che stavo rispondendo a mio genero al telefono. Ciao, buongiorno, non ti avevo riconosciuto, dai. Buongiorno anche a te. Ehi, cappa, dai. Fate. Anche io rimango in quel ricchio, dai. Eia, dai, abbiamo riattivato anche questa un po', giusto per fare due chiacchiere, visto che la 27 è molta oramai. Forse voi ha tenuto tutto il suo lardo. Va bene, dai. Ci sentiamo, KK. Ci avevo una... Boh, vabbè. Ah, stai usando quello là? O Fra? No. Quello là non ce l'ha la banda. Ah, è vero che siamo in U, sì, c'hai il tribanda, sì, ok. No, il mio è il quadribanda, questo è il quadribanda. Sto usando lo stesso io quadribanda, però con l'SM20. Cappa, no, va bene. No, io sto usando l'altro ICO. No, io sto usando lo 707 K2G con l'SM20. Ma non per usarlo qua, c'è anche questa memorizzata, ma... per tante altre cosette, dai, ascoltare un po' in... c'è il dipolo attaccato in HF e poi c'è la bibanda attaccata, la V e la U, la X30 mi pare sia, sì, no, la XC50 è questa. Va bene, dai, fatemi godere un po' di fresco, che mi metto a fare due cosette, che almeno oggi si può fare qualcosa. Ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ehi, ciao Clam, ciao anche a Benito. Magari più tardi. Ehi, arrivo, sì, di segnale ne ho? No, segnale no, ma la radio è buona. Anche tu, dai. 1, 2, sei di segnale, però la radio è 5. Già va bene. A dopo. Ehi, ciao. Ciao, Benito, da te arrivo? A grande. E Franco, io sono benissimo, Franco. Io sto usando il portatilino, volantino. Arrivi, non c'è problema, dai. Poi io sono non molto distante da te. Sono anche di fronte a Franco, ma l'antenna mia è attaccata a un ramo dell'albero, già tutto precario qua, dai. Va bene, a dopo, se no ce la mettiamo troppo. Ciao.